9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari radioascoltatori, in questo mercoledì 6 di ottobre, come vi ho detto lanciando la trasmissione, il tema è pressoché obbligato, sentendo da ieri pomeriggio, ieri sera, tutte le trasmissioni di approfondimento giornalistica non fanno che proporre, ciascuno col proprio taglio, al proprio punto di vista, riflessioni sulla novità annunciata, confermata ieri da parte dell'onorevole Fini, e cioè il passaggio per Futuro Libertà, la formazione che fa riferimento al Presidente della Camera dopo i fatti dello scorso luglio, quel controverso documento dell'ufficio di presidenza al PDL, un'espulsione di fatto per l'onorevole Fini, e tutta l'estate che ne è seguita, con scontri, polemiche, contese, con atmosfera arroventata, il passaggio poi dopo settimane e settimane di confronto muscolare in Parlamento alla ripresa post-estiva, invece con 5 punti votati di conferma del sostegno al governo in corso, e dopodiché l'onorevole Berlusconi si presenta alla festa PDL a Milano e come primo punto del suo intervento ne tira fuori uno che nei 5 punti non c'è, ed è invece la controversa commissione parlamentare di inchiesta sulla magistratura, che sembra fatta apposta per confermare a quel punto lo strappo e non la convergenza. E di fronte allo sviluppo del partito che viene annunciato ieri dall'onorevole Fini con un chiarissimo exergo, pronti al voto, ecco che tutti quanti ci interroghiamo su quale sia lo sviluppo che ci attende, se credere alla sforzo di responsabilità di cui ha dato mostra il Premier da una parte, ma anche gli esponenti parlamentari dei gruppi di Futuro e Libertà, nel prendere atto che gli italiani danno un messaggio chiaro a maggioranza, il mondo dell'economia, il mondo delle imprese dice: ma scusate, ma di sto teatro c'è proprio necessità, visto che qua sono i mesi necessari per agganciare la ripresa internazionale, visto che l'Europa è infrenata, ci sono nuovi segni di instabilità sui mercati, il caso delle banche irlandesi insegna che la crisi dell'eurodebito non è affatto finita, l'America si sta piantando da 2 trimestri e va a elezioni di midterm a novembre con una presidenza Obama nei confronti della quale gli americani dicono: ci hai promesso che con i tuoi pacchetti di spesa pubblica la crescita ripartiva. Sembrava così fino all'inizio di quest'anno, ma poi il mercato non crede al tuo eccesso di debito, e in questo contesto internazionale ci mettiamo anche noi a ballare la rumba della instabilità. Bene, però bisogna anche capire che la politica ha la sua autonomia, le sue leggi, e quindi di fronte a questo messaggio chiaro che viene dal mondo dell'economia, della maggioranza degli italiani nei sondaggi, fino a questo momento le elezioni non le capiremmo, tant'è vero che c'è un 40%, ieri sera vedevo da Bruno Vespa nei diversi sondaggi gli italiani che o dicono che non andrebbero a votare o non hanno per niente le idee chiare. Tuttavia la politica ha le sue dinamiche, e quando lo scontro che si è messo in atto, che è uno scontro di leadership, uno scontro di identità politica tra la componente onorevole Fini e il PDL di Berlusconi, e naturalmente la Lega che poi è alleata, sta a guardare anche lì, punto interrogativo, quanto continuerà a sostenere un quadro che almeno rispetto alla composizione elettorale con la legge elettorale attuale al Senato potrebbe non avere comunque la maggioranza necessaria a far scattare quei premi di maggioranza nelle regioni, tali da confermare all'alleanza tra il PDL, l'onorevole Berlusconi e la Lega, ma senza la componente finale, un'eventuale maggioranza. E quindi che si fa? Si va a votare di fronte al rischio che poi resti una maggioranza zoppa? Oppure, come chiedono molti giornali italiani, fine della mia introduzione, è evidente che c'è un tentativo di verificare dopo qualche altro settimana o mese di cottura a lunga rosolatura dell'onorevole Berlusconi, di discesa della PDL nei sondaggi, se in Parlamento c'è una diversa maggioranza per una diversa legge elettorale, terzo polo, vediamo. Questi sono tutti i temi al centro di un giorno come questo. Noi abbiamo deciso di far parlare soprattutto voi, chiedendovi di dirci come la pensate, 800 24 00 24, e abbiamo per questa prima parte della trasmissione con noi l'onorevole Luca Barbareschi, che è deputato di Futuro e Libertà e che mi fa particolarmente piacere ospitare i nostri microfoni. Ricordo a tutti che l'onorevole Barbareschi, nell'intervento relativo alla fiducia ai 5 punti, al sostegno parlamentare ai 5 punti illustrati in Parlamento dell'onorevole Berlusconi, ebbe sinceramente dei toni un po' non politici, diretti, sinceri, dicendo: io voto, però mi costa perché penso che l'atmosfera intorno a noi in questo paese in questi due anni, in quest'ultimo periodo, sia insomma un'atmosfera che non mi piace troppo, non di serietà, un'atmosfera in cui toni impropri oramai prevalgono. Buongiorno a lei, onorevole Barbareschi. Grazie di ospitarmi. Allora, lei dovesse dirci dal suo punto di vista, che ha una sua sensibilità personale, si è sempre visto nelle interviste e nelle dichiarazioni anche parlamentari fuori dal Parlamento che rilascia, e dovesse dire che cosa ci dobbiamo aspettare da questo sviluppo, se la legislatura dura o se è più probabile per lei il voto, come, perché, insomma, ci dia un pronostico più che una valutazione. Io posso dire quello che sarebbe un mio wishful thinking, come si dice, cioè un pensiero speranzoso, sarebbe di poter andare avanti, perché credo che le manovre finanziarie che dovremo affrontare tra qui a poco, ci hanno fatto ridere sentire Berlusconi quando dice 6.000, 7.000, poi contemporaneamente la BCE ci faccia sapere che forse le nostre manovre saranno dei 55.000 miliardi, no? per potersi allineare con quelle che sono le regole europee. Ovviamente l'Italia non può in questo momento trovarsi in una situazione di squilibrio politico e di tragedia politica e poi dover affrontare lacrime e sangue dal punto di vista dei sacrifici economici e tutto quello che va fatto. Il problema vero però è che noi ci troviamo davanti a un premier assolutamente che ha perso il contatto con la realtà, e questo è quello che mi sono permesso di dire in aula. Ha perso perché continua a parlare alla pancia degli elettori facendo delle promesse, il ponte di Messina, la Reggio Calabria, Salerno, cioè delle cose ormai la gente ride, non ci crede più, perché poi c'è un paese reale dove noi, appunto, io vado in bicicletta, vado a piedi, prendo i treni, cioè vivo la vita del comune cittadino e vedo lo stato di degrado del paese reale. Allora, il problema vero è un problema da un lato di rappresentanza politica, cioè di mettere nei posti chiave persone che abbiano realmente a cuore il benessere del paese e non il benessere della macro azienda, non so come più chiamarla, berlusconiana, perché ormai è allargata in talmente tanti settori che è ovvio che crea sempre motivi di irritazione, perché capisci che c'è sempre qualcosa che è Cicero Prodomo sua, però non dello Stato. E allo stesso tempo fare delle riforme in questo paese grosse, importanti, in vari settori, nel campo economico, nel campo delle banche, delle tecnologie, in quelli che possono essere i nuovi asset economici, perché se noi continuiamo a pensare in maniera vecchia, faccio un esempio, l'AT&T, che è una grandissima azienda di telecomunicazione, avendo capito che non si fanno più i numeri con le conversazioni telefoniche, sta facendo accordi con tutte le aziende più importanti di contenuti, dalla Disney a quelle più piccole, perché ha capito che gli economics nuovi gireranno sui contenuti. Noi sui contenuti non stiamo facendo assolutamente nulla. Nel campo, allora, dei media, nel sud dell'Italia potremmo fare delle cose straordinarie in questo campo, cioè passare da una situazione medievale a una situazione assolutamente moderna. La fermo perché è chiaro che, insomma, mi pare che lo scetticismo prevalga sull'auspicio. L'auspicio c'è, ma insomma lo scetticismo resta da parte dell'onorevole Barbareschi. Angelo Panebianco, politologo, saggista, editorialista del Corriere della Sera, grande saggio nostro, riusciamo a chiamarlo ogni tanto, anche oggi per pochi minuti. Lo ringraziamo del suo tempo. Dovesse dare invece lei una sua opinione, come vede questo sviluppo, la nascita di questo partito, prevalgono gli elementi ormai di instabilità e di immaginare che duri è molto difficile, e anche per gli stessi problemi che abbiamo di fronte, per il doppio binario che da gennaio del 2011 l'Unione Europea chiede a tutti i Paesi membri di rispettare. Non c'è più solo un controllo ex ante ed ex post sui salti pubblici, ma c'è anche un piano nazionale di riforme per realizzare gli obiettivi della crescita, che diventano questo doppio binario della vigilanza europea. Il ministro Tremonti ieri ha richiamato tutti all'attenzione per il rischio che questa instabilità, perché l'economia può peggiorare, in quel caso bisognerebbe non essere irresponsabili. Lei come la vede, Panebianco? Io credo proprio che alla fine saremo irresponsabili, nel senso che mi sembra difficile che il quadro politico possa tenere in queste condizioni. Mi sembra anche chiaro che tutti ormai si aspettano elezioni a marzo e che questa sta diventando una, come dire, una profezia che si autoadempie. Arriveremo, credo, a elezioni a marzo, perché il quadro non può più tenere, perché la divisione tra la nuova formazione politica creata da Gianfranco Fini e le altre componenti della coalizione, le divisioni sono ormai troppo forti perché la coalizione possa stare ancora in piedi a lungo. Da quello che immagina attualmente, dai segnali che gli italiani esprimono attraverso i sondaggi, c'è chi oggi, per esempio qualche giornale, il Riformista, fa un titolo d'apertura: gli sporcellatori, nasce il nuovo partito, porterà un nuovo governo, Fini punta a cambiare la legge elettorale, poi addirittura c'è a destra un intervento dell'onorevole Bettini, di Goffredo Bettini e PD, per battere Silvio ci serve un'alleanza con Montezemolo. Al di là delle previsioni, non le chiediamo di fare la ruspice, ma l'ipotesi che la perdita di consensi che è in atto nei sondaggi da qualche tempo, l'onorevole Berlusconi, possa portare anche a un tentativo credibile in questa legislatura di nuova maggioranza per una nuova legge elettorale più proporzionalista, per far diventare un terzo polo l'architrave, la convince Panebianco? Allo stato degli atti no, non mi pare che ci siano i numeri. Perché si realizzi questo scenario occorre uno sfaldamento del Popolo della Libertà al Senato, altrimenti i numeri non ci sono, e quindi comunque al di là della fattibilità politica di un'operazione del genere mancano i numeri al momento per fare questa operazione, quindi vedo ancora più probabile le elezioni a marzo. Naturalmente se accade qualcos'altro dentro la compagine politica berlusconiana, allora si riaprono tutti i giochi e tutti gli scenari. Un'ultima domanda per Panebianco: se guardiamo a ciò che sta avvenendo nelle famiglie, diciamo, liberal, moderate, conservatori, con le diverse sfumature in Europa oggi, e vediamo le difficoltà di Sarkozy dall'altra, in Scandinavia al contrario sono loro che rappresentano un po' la via d'uscita da una socialdemocrazia negli ultimi anni vista come troppo pesante fiscalmente, però insomma anche la Merkel ha dei suoi problemi in Germania, anche se è un paese da invidiare dal punto di vista del rigore e della stabilità, però nei sondaggi e nei giudizi politici è in difficoltà. C'è una difficoltà che ci accomuna dal punto di vista della tenuta delle forze liberal moderate, oppure come sempre la crisi di questo centrodestra italiana dopo 16 anni è l'eterna conferma di una anomalia, cioè di una distanza abbastanza incolmata rispetto alle famiglie liberal moderate europee? Che dice? Direi che anche in questo caso ci presentiamo con un'anomalia, perché fino all'esplosione del conflitto tra Berlusconi e Fini il governo andava a gonfie vele nei sondaggi, aveva il sostegno dell'opinione pubblica in una fase di crisi economica. È evidente che chi governa paga per le conseguenze della crisi, e quindi non c'è nulla di strano nella caduta di consenso ai governi conservatori o liberal conservatori in giro per Europa in una fase di crisi economica. In quella, tuttavia, l'Italia faceva eccezione fino a poco tempo fa. In Italia questa crisi dei consensi al governo non si manifestava. La crisi si manifesta per una rottura interna alla maggioranza, quindi per ragioni squisitamente politiche e non legate alle performance economiche del governo. Quindi vedo un'anomalia anche in questo, sì. Ecco, e che questa anomalia, nel ringraziare Panebianco dei minuti che ci ha dato, io mi auguro e voglio sperare che non ci porti poi a confermare l'anomalia che da sempre abbiamo rappresentato anche in cima alla lista dei paesi che motivavano la sfiducia dei mercati. Noi lo siamo stati per tanti anni, dall'inizio degli anni 90, dagli anni 80, e questa è la parte che facciamo nel contesto europeo. Nella crisi dell'eurodebito tra febbraio e maggio, per la prima volta dopo tanto tempo, non eravamo in cima alla lista della sfiducia dei mercati, perché perché tanto criticato Tremonti che fa i tagli lineari, tutto vero, però alla fine con la sua lesina ha risparmiato al nostro paese con un deficit pubblico inferiore a quello tedesco e molto lontano dalla media degli altri paesi europei e OCSE, che per via dell'esplosione dei loro sistemi finanziari hanno dovuto accrescere molto la loro componente di deficit pubblico, ci ha risparmiato di finire in quella calderone della sfiducia dei mercati. Il giorno che dovessimo rientrarci, io credo che sarebbero cavoli amari per tutti, perché tenete conto che gli spread sui titoli del debito pubblico diventano poi degli spread che si traslano su qualunque cliente bancario, perché aumenta il costo del funding, cioè del finanziamento che si fa sul mercato interbancario a breve delle banche, eccetera eccetera eccetera. Comunque io riconosco alla politica la sua piena autonomia. Tra i nostri ascoltatori, onorevole Barbareschi, c'è qualcuno che ricorda che in un film lei interpretava la parte di un leader politico che stava in una formazione il cui nome non è molto diverso da quello che ha assunto il partito il nascente partito dell'onore fini in cui si trova. Futuro Italiano. Ecco, si chiama Futuro Italiano. Ma cos'è che poi l'arte e cinema anticipa la realtà? Non so, io ho fatto un film che si chiamava Il Trasformista ormai 7-8 anni fa, che nessuno vuole mandare in onda, forse perché è di un'attualità tremenda, la RAI si rifiuta di mandarla in onda, che ha preconizzato tutto quello che in realtà è accaduto. Quando ho fatto The International, parlando con il regista, gli ho detto sarebbe divertente raccontare la storia di un tycoon che si butta in politica, però in realtà poi viene ucciso in piazza a Milano durante un comizio. E quando abbiamo pensato tutta la costruzione, abbiamo inventato un titolo che ovviamente futuro è sempre la parola che piace, italiano, però ovviamente c'erano riferimenti vaghi a qualcosa di già esistente, eccetera. Ecco, lei però ha molto spesso toccato il tasto del costume, ma non del costume nel senso solo dell'espressione popolare del termine, cioè il costume della politica, facendo della questione poi del conflitto di interesse, ha fatto riferimento anche prima, di Berlusconi, un punto che torna molto spesso nei suoi giudizi. Però questo mi faccia finire la domanda. Nel giudizio degli elettori del centrodestra che rimangono fedeli al PDL e vi danno dei traditori, per essere chiari, perché ci sono, questo colpisce, perché dicono: ma come, il conflitto di interesse di Berlusconi solo adesso esce fuori? Cioè, molti ascoltatori che si riferiscono per esempio all'intervento ieri sera del direttore del Secolo, onorevole Perin, che di fronte a giudizi, una richiesta era Ballarò di una, come sarà la posizione di Future Libertà di fronte a eventuali decisioni della maggioranza del PDL nei confronti della RAI con il ministro Moromani eccetera eccetera, ha detto chiaramente: noi abbiamo una mozione parlamentare in cui chiediamo su questi temi che vi sia l'assoluto rigore per evitare che gli interessi del Presidente del Consiglio si riverberino sull'azienda radiotelevisiva pubblica. La domanda che molti vi fanno è: ma se vi è andata bene per tanti anni, che solo adesso si evidenzia questo problema del conflitto di interesse di Berlusconi? Lei l'ha sempre tirato fuori, però capisce che c'è un'obiezione forte da una parte dell'elettorato. Come risponde? Ma guardi, credo che un conto era avere un conflitto di interessi, cioè un signore, un editore che diventa politico e ha una sua azienda. È sbagliato, però dice, se c'è un vero blind trust dove lui in realtà, e questo devo ammettere, riconoscere a Berlusconi, cioè i suoi telegiornali quando c'era Mentana non li trovavo faziosi, li trovavo sì Federo molto di parte, però in realtà insomma Canale 5, che era la grande corazzata, il TG5, trovavo un ottimo giornale che faceva Mentana, tant'è vero che aveva un grande successo eccetera, e conoscendolo come editore, Berlusconi non ha mai imposto sia nel cinema sia nei programmi dei contenuti, no? Per cui per me era abbastanza di garanzia questa cosa. Il problema è che poi, no, la hubris, che poi porta però tragicamente a una nemesis, come lei sa benissimo, Giannino, ha fatto sì che il signore abbia perso il senso, secondo me, della realtà, perché quando noi abbiamo un'azienda Mediaset che controlla Endemol ed Endemol fattura con la RAI per svariate decine, se non oltre 100 milioni di euro, e oltre questo controlliamo il telegiornale, allora diventa, non so come dire, Citizen Kane, quarto potere, cioè diventa una cosa imbarazzante. È ovvio che questo già incominciava a cadere, noi avevamo avuto delle garanzie che non ci sarebbe stata un'invasione di campo così pesante, e poi, questo lo dico per conoscenza, essendo vicepresidente delle telecomunicazioni e dei trasporti nella commissione al Parlamento, quando ho visto il tipo di invasione che veniva fatta di campo in questo senso, allora sono cominciati i grossi problemi, anche perché nel caso specifico la forza di Mediaset dentro il sistema radiotelevisivo italiano delle telecomunicazioni è talmente forte da in qualche modo rallentare tutte le possibilità di sviluppo di modelli di business che sono ormai diversi, perché la televisione generalista che genialmente Berlusconi creò negli anni 70 o 70-80 aveva un modello di un certo tipo. Oggi si va verso gli aggregatori di rete, si va verso tutto un altro mondo di narrowcasting, di raccolta, c'è una rivoluzione copernicana in atto. Il rallentare questo tipo di sviluppo è un danno per il paese, anche economico, perché è di sviluppo intellettuale e di tutti i tipi, per cui insomma questo ha creato secondo me molte tensioni, se non altro da parte mia. In più credo che lui abbia un problema proprio di moti peristaltici, cioè da un lato parla di etica, di morale, di meritocrazia, dall'altro fa esattamente in soldoni poi si muove esattamente in direzione opposta, per cui mi sono permesso di ricordare che i contenuti oggi saranno chiave, e così come è avvenuto secondo me con la Fiat degli anni 50, dove siamo diventati poi negli anni solo i casellanti sulle strade delle auto, se noi non puntiamo su un certo tipo di mondo, che è quello che per esempio Murdoch ha capito insieme a Bill Gates creando iPad eccetera eccetera, noi rischiamo di diventare ancora una volta i casellanti delle strade della comunicazione su cui però passano contenuti altrui, altrui, con un doppio problema economico da un lato e culturale dall'altro, perché dall'altro la colonizzazione è totale. Benissimo, allora c'è stata un'accentuazione del problema nella sensibilità dell'onorevole Barbareschi. Non le dico quanto sono tosti e aperti nella forbice di opinioni i commenti dei nostri ascoltatori, alcuni mi dicono che io sto facendo la dichiarazione di voto per l'onorevole Fili, ma guardate, io faccio il mio mestiere e do voce a chi crea novità. Qui la novità c'è, ragazzi, inutile che io capisco che chi ha votato in un certo modo possa giudicare la politica attraverso la categoria del tradimento, però la categoria del tradimento è un po' come nei rapporti sentimentali, dipende dai punti di vista. C'è un'instabilità del paese, secondo me, che si accentua. Resto un bipolarista, non mi convincerà mai che il ritorno proporzionale sia una prospettiva, ma tutto qui, io faccio l'osservatore e il semaforista. E quindi oggi ci occupiamo di questa novità e di che cosa rappresenta. Intanto la pubblicità e poi torniamo in studio. Eccoci tornati in studio sulla novità del partito che fa riferimento all'onorevole Fini, dopo i gruppi parlamentari, dopo il voto in Parlamento sui 5 punti che ha fatto dire a molti, ma sembra che il governo possa continuare, però insomma gli accenni sono oramai alla libertà in materia di riforma elettorale. L'occhio, come ci ha sottolineato Angelo Panebianco, e a considerare se anche in Senato l'autonomia, cioè senza i finiani di maggioranza di cui gode PDL e Lega, possa erodersi e a quel punto possa aprirsi una prospettiva di un passaggio tecnico, o meglio di una maggioranza diversa per una diversa legge elettorale, come oggi molti si interrogano sui giornali. Iniziamo a sentire alcuni ascoltatori come la pensano. Giorgio da Pisa. Pronto? Dica, Giorgio. Allora, premetto che i nostri politici tutti italiani sono troppo furbi o troppo asini. A parte questo, io secondo il mio punto di vista vedo che l'operazione Fini-Berlusconi è un'operazione di marketing per apprendere gli eventuali voti in fuoriuscita dal centrodestra che potrebbero migrare verso il centrosinistra dopo tutte le vicende accadute ultimamente. Tutto lì. Bene, sentiamo l'opinione di Elena da Torino. Buongiorno innanzitutto. Ma guardi, io sono molto amareggiata per quello che sta succedendo, perché sono un'elettrice del PDL e quindi mi sento assolutamente tradita, e le dico, credo che Fini da sempre abbia mal sopportato la leadership di Berlusconi e che abbia semplicemente cavalcato un'onda per riaffermarsi sulla scena politica ed eventualmente ambire alla presidenza del Consiglio. Non credo assolutamente che questo aiuti il Paese, anzi credo che questo magari per loro diventerà un'occasione per modificare una legge elettorale che per carità non è sarebbe da modificare, ma credo che in questo momento il Paese abbia altre priorità e altre urgenze, e credo che delle persone veramente coscienziose avrebbero dovuto prima di tutto dedicarsi ai problemi del Paese uniti, perché solo insieme potevano fare qualche cosa. Cioè la sua opinione, invece, la sua opinione è, quando c'è un voto come l'attuale in cui ci sono gli elettori che indicano, perché c'è il nome sulla scheda, il Presidente del Consiglio, politici seri restano fedeli al mandato fino alla fine della legislatura, poi se negli ultimi mesi, prima della scadenza dei 5 anni, ci sono questioni di leadership latente, allora lì si scatenano, ma porle a 2 anni, quando tutti insieme si è preso il voto per far governare Berlusconi, non è serio, se ho capito bene. Non in un momento come questo. Certo. In questo momento non dobbiamo pensare alla questione personale, perché poi guardi che io a questi politici moralizzatori non ci credo. Anche il conflitto di interessi, ma insomma non siamo nati ieri, si sa che c'è, fino a poco tempo fa vi è andato bene. Mi capisce, io veramente mi sento presa in giro. Grazie a Elena da Torino, e vedo dai messaggi che c'è un stato d'animo di questo tipo diffuso in moltissimi elettori del centrodestra. Poi ce ne sono altri che invece dichiarano di essere in quel partito del 41% che si è visto ieri sera nei sondaggi alla trasmissione di Vespa, che dicono: io di fronte a questo non so cosa dire, sono tanti anni che voto centrodestra, ma se ogni volta ce n'è una ci dovrò pensare bene. E quindi anche questo è motivo di riflessione per il centrodestra che volesse poi precipitare al voto. Ci ha chiamato onorevole Guido Crosetto, che io conosco da anni e di cui ho stima, è sottosegretario di Stato alla Difesa in questo governo, e sentiamo qual è la sua opinione. Buongiorno e grazie onorevole Crosetto per averci chiamato. Buongiorno Giannino. No, vi ho chiamati perché stavo ascoltando la radio in macchina durante uno spostamento, non potevo non chiamare, perché le affermazioni di Barbareschi sono, a parte, pesantissime, ma quando si è candidato Barbareschi, le cose che ha sollevato oggi non le pensava? Perché io dubito che ci siano persone che si siano svegliate dopo essersi candidato, aver partecipato 2 anni alla maggioranza, aver condiviso un programma elettorale, poi improvvisamente si svegliano e dicono: ah, Berlusconi non mi piace più. Non è che il Berlusconi di adesso sia diverso dal Berlusconi di 3 anni fa, non è che il programma sia cambiato, non è che i problemi che stiamo sollevando siano problemi nuovi, sono noti a tutti. Allora, c'erano persone che fino a alcuni mesi fa parlavano in un modo e adesso parlano in modo totalmente opposto, sembrava l'intervento di un rappresentante dell'ITV. Allora io mi chiedo: com'è possibile che improvvisamente un gruppo di persone decidono che tutto quello che hanno detto fino a alcuni mesi fa è sbagliato e fanno un giro a 360 gradi e improvvisamente diventa il punto centrale di questo paese, che è in crisi, che ha bisogno di lavoro, che ha bisogno di uscire a testa alta dalla crisi economica, il problema diventa la legge elettorale. Per carità, questa legge elettorale è una legge elettorale che probabilmente non premia il lavoro dei singoli parlamentari collegati al territorio, è una legge in cui probabilmente dall'alto vengono candidate ed elette delle persone, ma Barbareschi è una di queste. Barbareschi probabilmente si fosse confrontato in un collegio elettorale con qualche persona impegnata realmente in un territorio che realmente si occupava dei problemi della gente da anni, non sarebbe stato eletto. Quindi che gli stessi principali beneficiari di questa legge siano quelli che poi adesso l'attaccano, io lo trovo ridicolo avendo sempre fatto nella mia vita l'imprenditore, ma avendo fatto da quando 20 anni ero sindaco nel mio piccolo paese. Cioè, perché il tutto lavorando, perché non percepivo stipendio da sindaco di un comune di 2500 abitanti allora. Prima ho fatto il consigliere provinciale, sempre lavorando e cercando di portare avanti una famiglia in cui era mancato anche il padre. Cioè, non è che le persone che sono al governo adesso sono persone che vengono dalla luna, che non si impegnano tutti i giorni per il paese. Io passo 14 ore al giorno al Ministero della Difesa, basta chiedere a quelli che ci lavorano, e il sabato e domenica molto spesso, siccome i rapporti internazionali sono in giro per il mondo, sono 3 settimane che non vado a casa. C'è anche questo al governo, perché altrimenti si dà l'idea di una politica che tutto il giorno è impegnata a discutere su se stessa, lontanissima dai problemi e soprattutto lontanissima dal mandato che ha ricevuto dalla gente, che è quello di cercare ogni giorno di lavorare per questo paese. Allora, il PDL è un partito che ha racchiuso al suo interno diverse sensibilità politiche. C'era spazio all'interno del PDL anche per le sensibilità politiche che hanno deciso di andarsene e di costituire un nuovo partito. La mia impressione è che una parte di AN si sia in qualche modo spaccata da un'altra parte di AN e noi stiamo consumando all'interno del PDL quella che è una crisi di AN. Per certi versi, però posso accetta una riflessione che poi poniamo anche a Francesco Storace che è collegato con noi. Io penso che al di là del regolamento fuori tempo di conti tra AN, ex componenti e diverse ispirazioni culturali di AN, il problema c'è anche, per così dire, un odore del sangue che secondo me non è vuole fini e gli elementi più, diciamo, immoderati, perché poi all'interno di Futura Libertà, insomma, ci sono alcuni, Granata, Bocchino, lo sappiamo, ma anche Barbareschi, che hanno giudizi netti, altri, insomma, sono personaggi che hanno più moderazione quando parlano, ma nei più decisi, quelli che poi alla fine hanno detto qui c'è una rottura personale, bisogna fare il turnaround e oggi parlano di riforma elettorale. Secondo me è come se si avvertisse una specie di tempo maturo. Qual è il tempo maturo? Lo dico come non lo direbbero loro. Tempo maturo per dire se diamo noi la spallata decisiva a i numeri per Berlusconi di governare in questa legislatura e lo mettiamo in difficoltà perché ci si è messo lui da solo di fronte al suo elettorato cacciandoci dal partito e lo mettiamo in condizioni di non poter più vincere a tavolino con la Lega che si deve iniziare a fare il conto, perché può essere che al Senato, se si allea solo con Berlusconi senza di noi e noi che andiamo al centro, le elezioni non le vincono al Senato per via dei premi di maggioranza, noi in parole povere diamo la spallata decisiva a Berlusconi. E a quel punto chi dà la spallata decisiva a Berlusconi merita la riconoscenza di tutti gli altri per anni e anni a venire, perché si gira la pagina del paese dopo 16 anni. Lei non pensa che sia un po' questo il ragionamento dei Finiani? Guarda, io penso che il ragionamento dei Finiani sia in parte questo. In parte si è dettato da parte di alcuni, io rispetto di moltissimi, la maggioranza di quelli che fanno parte del gruppo di FDI, perché sono amici, lo erano fino a ieri, oggi non sono diventati nemici, e perché so cosa pensano realmente. Però quello può essere un motivo, ma in questo momento, lo chiedo anche a lei, ma non perché sono al PDL, ma le sembra che esista un leader alternativo capace di mettere assieme una maggioranza che in qualche modo si ritrovi su un programma? Cioè, noi critichiamo Berlusconi, ma Berlusconi vince le elezioni e guida il PDL non perché ha deciso lui di farlo, ma perché si è dimostrato in questo periodo l'unico in Italia in grado di mettere assieme una coalizione, metterla d'accordo su un programma e farla governare. Al di là delle critiche da bar che fa Barbareschi, questo governo in questi due anni ha fatto delle cose che magari non sono conosciute, che sono di grandissimo livello, ma basta pensare ai risultati della lotta alla criminalità, basta pensare a come in qualche modo stiamo uscendo dalla crisi economica. Io non sono di quelli che siamo usciti, va tutto bene, no, il paese è in difficoltà, il paese è in ginocchio, le imprese sono in difficoltà, stanno aumentando i fallimenti, c'è un problema reale del credito, ma c'era un problema più grande che andava sopra tutti questi problemi, che era il problema se il nostro paese ci avrebbe fatto uscire, lei lo sa benissimo. Ah no, no, ma infatti questo noi lo ricordiamo sempre. Di fronte a questo il dovere della responsabilità era chiaramente un altro, però la logica della politica poi è la logica della politica. Lo chiedo a Francesco Storace, secondo lei, che ha fatto anni e anni di militanza e non ne ha mai risparmiate nessuna quando c'era AN, anche a Gianfranco Fini, cioè lei è una persona che ha un'idea chiara e la dice dentro il partito, fuori il partito, nel PDL, polemizzando con Berlusconi quando è stato necessario, quindi la sua opinione è che questa rottura avviene perché lì c'è un calcolo, siamo noi i seppellitori di Berlusconi e alla fine ci dovranno portare al Quirinale per rendercene grate, oppure è una dinamica sfuggita di mano, oppure ancora è un uomo che non è all'altezza, l'onorevole Fini, di capire più le responsabilità nazionali? Lei come la pensa, Storace? Certo, grazie per l'invito. Io ho un'opinione, credo, abbastanza chiara su questa vicenda. Fini è un uomo senza bussola. Perché vede, ho seguito il suo ragionamento, il percorso che vorrebbero fare i Finiani, no? Ci ho dovuto mettere un po' di tempo per poter arrivare alla conclusione, esatto. Però io dico, allora perché hanno dato la fiducia? Perché se Berlusconi è il male assoluto, un tempo per Fini era il fascismo, adesso è diventato Berlusconi, credo che debba spiegare lui, fanno tutto questo casino e poi cominciamo da capo e Berlusconi ha la maggioranza ancora più ampia in Parlamento. È qualcosa che sfugge più, è politichese, è qualcosa che serve a ridarsi una verginità sul fronte sinistro che non a caso non lo attacca su una vicenda che noi abbiamo scoperchiato. È la vicenda, la famosa, è la famosa casa di Montecarlo. Sì. Do notizia che ieri pomeriggio i nostri colleghi di partito che hanno effettuato questa iniziativa giudiziaria hanno depositato altre 40 pagine di memoria di integrazione alla denuncia chiedendo il sequestro dei beni. Cioè qui stiamo parlando di un signore che mente al paese e mente al punto che adesso si è scordato quello che ha detto, e qui ha ragione Crosetto, 2 anni fa. Il dettaglio che però dovrebbe ricordare Crosetto, è onesto intellettualmente com'è, lo fa senz'altro nella sua mente quanto sto dicendo io, è che noi 3 anni fa lo abbiamo detto all'Italia quale sarebbe stato l'atteggiamento di Fini. Però il PDL ha scelto Fini scaricando noi. E questa è un'autocritica che io mi aspetto. Il Presidente del Consiglio è venuto a Taormina a dirlo alla nostra convention e gli fa onore, gli fa dato onore per quello che ha detto. Però qui non è pensabile che si possa continuare a giocare sulla pelle dei cittadini attraverso il ricatto continuo. Vede, io leggo i giornali, non stando in Parlamento, e sorrido rispetto a quello che sta accadendo. Adesso si cerca l'armistizio. Prima la Bongiorno era il nemico numero uno, adesso resta Presidente della Commissione Giustizia. Ma io vorrei capire che serietà ha una politica del genere. Allora vorrei un po' più di decisione. Uscire dai tentennamenti, dire pane pane, vino al vino, e la gente capirà. Perché non è vero, il cittadino si punta all'astensione quando non capisce. Ma se si dice liberiamoci di chi tradisce, la gente capisce come. Allora, la fermo un secondo qua perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi riprendiamo con qualche altra telefonata agli ascoltatori, però la prego di restare a telefono. Molti ascoltatori mi fanno notare che poi c'è anche un vertice di autopunizione, un po' di masochismo del centrodestra che riesce a mettersi da solo in pasto agli italiani in debolezza, responsabile della instabilità di governo, mentre fino alla scorsa inizio dell'estate non era così, quando poi a sinistra alcuni ascoltatori ci dicono che Vendola dichiara Bersani e D'Alema sono anime morte, che Occhetto rilascia intervista dicendo 20 anni fa una svolta inutile, siamo ancora aggrappati al muro. Insomma il centro sinistra sta giovando del fatto che grazie all'onorevole Fini, dicono molti ascoltatori, il centrodestra si è avviato all'auto inabissamento. Sentiamo rapidamente telefonate ancora di ascoltatori. Cominciamo con Maria che ci chiama da Bologna. Prego Maria. Buongiorno, io volevo dire innanzitutto che Fini il partito ce l'aveva, quindi non si capisce perché debba sciogliere il partito per rifondarne un altro, e questi sono tutti giochi politici di cui ormai la gente è stanca. Questi politici pensano soprattutto al loro interesse personale e non al bene della popolazione che avrebbe del popolo che avrebbe bisogno di riforme in questa situazione di gravi crisi. Per cui io penso che le astensioni aumenteranno e anche andando a votare non si risolverà assolutamente niente, perché sarebbe e quindi se è così Maria meglio evitare, sarebbe, per così dire. Sentiamo Eugenio da Padova invece come la pensa. Sì, dottor Giannino, buongiorno. Io sono un elettore del PDL e sono molto amareggiato, non, diciamo che potevo anche aspettarmela, sono dispiaciuto per Fini perché ha tradito gli elettori, ha tradito i militanti. Ma se l'aspettava lei? Ha sentito Storace che ha detto io ve l'avevo detto, ve l'avevamo detto, perché no, non ce l'avevamo? Le dico una cosa, Giannino, ancora 5-6 anni fa, in tempi non sospetti, una sera con diversi amici, quindi ho una decina di testimoni, quando mi dicevano che Fini è una persona seria, quella, gli dicevo, ma è serio perché non ride, perché sta bel diritto alto, perché è una bella persona alta. Voglio dire, Fini ha tradito, si ricorda che 10 giorni fa ha detto che si sarebbe dimesso, perché non si dimette per la casa di Monte Carlo, perché ha fondato un partito? Chiarissimo come la pensa Eugenio. Guardi, potrei continuare. No, ma lei è chiaro, ha detto si deve dimettere, traditore, perfetto. Franco dalla provincia di Brescia abbiamo ancora, prego Franco, ci dica rapido. Grazie, buona giornata, io... Non vorrei raccontare fesserie, però dopo 54 anni, 24 che sto, cioè 34 che sto votando, cioè mi sembra che siamo arrivati peggio che le partite del pallone, no? Io sono del Milan, l'Inter, tu hai perso, io ho vinto, ma non si possono trovare queste persone, i leader, ma veramente tirar fuori qualcosa di bello. Cioè io sento delle mie parti i leghisti, ma cosa vuoi parlare tu che hai perso, che sei del centro? Ci fanno sentire delle nullità, ma almeno fate qualcosa di concreto. Perché lei è un elettore del centro-sinistra? Sì, ecco. Sì, sì, sono un elettore di centro-sinistra, ma democratico. No, no, ma per carità. Se il centro-sinistra sbaglia, io condanno. Ma no, ma si figuri, mica io posso pensare che gli elettori del centro-sinistra non sono democratici, quindi l'avversativo ma democratico no, non è il caso di usarlo, ci mancherebbe altro. Dunque, il problema è che una componente della politica essenziale quando si è statisti è la responsabilità nazionale, avere chiaro quali sono le priorità. Però ce n'è un'altra nella componente della politica, e la lotta per la leadership di solito prevale sulla responsabilità. Guardi, dai tempi degli antichi re di Roma più o meno, e dalle lotte nell'Atene preclassica funziona così. Torniamo con l'onorevole Storace. Lei parte dall'assunto che Fini ha perso la bussola. Se Fini ha perso la bussola, e se lei dice a questo punto tanto vale dire pane pane vino vino e andare avanti, il rischio è che facendo così non si vada dritti a un voto il cui esito potrebbe essere di consegnare al paese, dopo la contesa, lo scontro, il regolamento di conti, un Senato senza maggioranza per lo stesso centrodestra, in cui si andasse al voto con Lega, PDL, voi, tutte le altre componenti, non Finiani, eccetera. Di fronte a questo rischio, secondo lei sarebbe un bene affrontare questa prospettiva, Storace? Guardi, io ho visto e rivisto la legge elettorale. È praticabile l'idea che Fini partecipi alla grande ammucchiata fino a Vendola? A me pare di no. Quindi parliamo di tre poli ai nastri di partenza. E credo che i due poli di opposizione resterebbero tali, anche al Senato. Io vedo al Senato, per fare una coalizione che ottenga seggi, ci vuole il 20%. Una lista che si presenta da sola, l'8%, non fa danno. Questo voglio dire. Fini ha sbagliato clamorosamente i conti e ha il terrore del voto. Ed è qui l'ipocrita balletto sulla fiducia. Questo fa astenere i cittadini. Fa astenere i cittadini l'ipocrisia. Io preferisco Berlusconi di domenica scorsa, quando dice le cose che deve dire. Quello che è media non lo si capisce più, perché oggettivamente qui ci stanno prendendo in giro con un partito, adesso sono inventati Futuro e Libertà, è un movimento di opinione organizzato, perché al loro interno non sanno che fare. Ma chi vogliono prendere in giro? E poi ha detto benissimo Maria di Bologna, sottoscrivo in pieno, ce l'aveva il partito, l'ha chiuso e ne ha fatto un altro. Fini ha già sciolto due partiti che ha guidato, l'MSI e AN. Auguro ai colleghi di Futuro e Libertà di avere più fortuna. Anche perché lei dice di solito non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre, scioglierà fra qualche minuto anche Futuro e Libertà. Ma si può stare appresso alle bizze di un leader politico? Va bene, e su questa domanda, la cui risposta per me, non solo per l'onorevole Fini, ma per tutti i leader politici, se le bizze prevalgono sulla sostanza è no, io temo, e lo dico con grande sincerità, stando al nord e col nostro pubblico e parlando all'impresa che ha molto gli attributi gonfi di rabbia, io temo che vi dobbiate aspettare anche la nascita di una nuova formazione che dica noi vogliamo pochi punti chiari e meno chiacchiere per far crescere, meno tasse, meno spesa, e non solo federalismo, ma meno catasse, meno spesa alla tedesca, e credo che qualche sorpresina ci possa essere. Io continuo a dirlo perché sento nell'aria che c'è il rischio che nasca un partito di questo tipo, un PIL, ecco, che poi diventa il simbolo di un partito, il nome di un partito, ma anche prodotto interno lordo di fronte a uno Stato e una politica che ci deludono. Comunque grazie ad Angelo Banebianchi, grazie a Luca Barbaresi, grazie a Francesco Storace, l'onorevole Crosetto che ci ha chiamato, grazie in regia a Carmelo Lauricella, in redazione alle Sandro Marcutul e come assistente prezioso alla diretta Franco Piantanin, da linea al giornale radio. Appuntamento, oimè, con me a venerdì, con la trasmissione a domani.